Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Do il saluto a Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Mirko, un saluto agli ascoltatori. Dunque, chi ha letto il Gazzettino oggi o chi ha ascoltato la nostra rassegna stampa questa mattina sa già qual è l'argomento dell'osservatorio, quell'inchiesta, appunto, quel sondaggio che il Gazzettino pubblica il martedì. Oggi mi pareva particolarmente interessante, infatti mi sono un po' dilungato nella spiegazione, ma ci torniamo sopra. Parliamo infatti di smartphone, Gianluca, smartphone e tablet. Sì, abbiamo potuto oggi leggere appunto questo sondaggio, questa ricerca che appunto è stata presentata dal Gazzettino. Non siamo rimasti stupiti dai dati, però diciamo che per molti aspetti sono eloquenti. Il dato principale che emerge da questa ricerca è che ormai sopra i 14 anni il 64% della popolazione possiede uno smartphone oppure un tablet. La cosa più particolare, anche più rilevante, è che rispetto al 2014 si è registrato addirittura un aumento del 22%, quindi di persone che possiedono questi due strumenti. Stiamo parlando di persone over 14, non è stata indagata la platea degli under 14, là chiaramente è tutto un discorso a parte, però sappiamo benissimo che anche in quella platea ci sono moltissimi possessori di smartphone e tablet. E la ricerca appunto evidenzia quindi l'utilizzo, per non dire il sovrautilizzo, di questi due strumenti, tramite i quali ormai si fa un po' tutto, perché praticamente non si chiamano più le persone, ma si naviga, ci si informa, si fanno acquisti, si controlla la propria posta e praticamente si passa una gran parte della giornata quindi davanti a uno di questi due strumenti che ormai sono nelle tasche di tutti, insomma sono nell'uso di tutti. Ecco, il titolo era evidente, no? Lo smartphone viene definito indispensabile soprattutto da chi non ha conosciuto altri mezzi di comunicazione, perché noi che abbiamo qualche anno in più sappiamo che cos'è il mondo senza smartphone, ma chi è nato adesso, appunto i millennial, invece conosce questo come mezzo di comunicazione. Ecco Mirko, direi che noi che evidentemente abbiamo conosciuto anche il periodo in cui c'era esclusivamente il telefono di casa, ci possiamo anche ritenere, diciamo, fortunati, perché abbiamo visto comunque sicuramente un'evoluzione che ci ha fatto anche imparare a stare anche senza volendo il telefonino, mentre diciamo che le nuove generazioni senza il telefonino non ci stanno, tant'è che, e questo è forse il dato più emblematico di tutta la ricerca, risulta che addirittura il 37% dei possessori appunto di smartphone o tablet ritiene che non riuscirebbe a viverne senza. E Mirko, questo dato è in aumento dell'8% sul 2014, il che significa che in 3 anni la situazione si è evoluta molto, si è evoluta sicuramente in senso positivo, perché nessuno vuole dire insomma che smartphone e tablet non servano, sappiamo benissimo quanto utile sia stato l'utilizzo del cellulare da quando è nato. In questo momento però è palese che ci sia un abuso, e tant'è appunto che sempre secondo i dati che sono oggi riportati sul Gazzettino, appunto nel 2014 il telefonino, no, anzi smartphone e tablet era posseduto dal 42% delle persone, poi ogni anno è aumentato sempre di più, come abbiamo detto prima, nel 2015 il 53%, nel 2016 il 56%, oggi il 64%, e oggettivamente è un dato che, ripeto, deve far riflettere, e probabilmente sta facendo riflettere anche molte persone. Sorrido, in realtà non è poi tanto da sorridere, che si trovano adesso in spiaggia e che potranno vedere come evidentemente molti compagni di spiaggia, se non proprio loro stessi, saranno in questo momento davanti al proprio tablet o saranno col proprio smartphone in mano, e quindi insomma anche scordando un po' quelli che sono i divertimenti della spiaggia e le tante cose che si possono fare in spiaggia oltre a prendere il sole. Però ecco, siccome non vogliamo fare non vogliamo criticare la modernità, perché non è il caso di farla, diciamo che è comunque un dato positivo, perché il tablet e lo smartphone servono molto anche per informarsi e per restare costantemente informati, chiaramente l'invito che lanciamo come associazione, come Adico l'abbiamo sempre fatto, è quello di non abusarne, e soprattutto ai ragazzi che lo utilizzano costantemente, diciamo, ok, mettetelo un attimo giù e parlate tra di voi, perché mi sembra che questo aspetto stia un po' mancando. Ecco, parliamo anche dell'aspetto della sicurezza, nel senso che siccome di fatto gli smartphone, i tablet sono dei computer molto compatti, ma sono dei computer e hanno tutte quelle funzioni, vanno usati come tali, ad esempio le password, tutti i sistemi di sicurezza relativi, che ne so, all'utilizzo dei conti correnti, eccetera eccetera. Se uno perde il suo telefono, davvero è quasi peggio che se perdesse il portafoglio. Sì, noi abbiamo, anzi si rivolgono a noi molte persone, non tanto quando perdono chiaramente il tablet o lo smartphone, perché quello quel caso c'è la denuncia, però si rivolgono a noi soprattutto per furti di dati, ma anche e soprattutto perché molto spesso ci si ritrova a pagare quei famosi servizi non richiesti. Ma comunque diciamo che, come dicevi te giustamente Mirko, si è sempre sottoposti, sempre più anzi esposti alla possibilità appunto di farci rubare i dati. Non dimentichiamo poi quello che sta succedendo un po' con Facebook, con i telefonini e con gli adolescenti, che anche per questo vizio di riprendersi continuamente e anche in situazioni magari un po' più delicate, ecco, hanno creato sicuramente delle problematiche a tanti ragazzi, a tanti ragazzini che hanno utilizzato male questo strumento. Quindi attenzione, bisogna stare attenti. Si sa che forse i ragazzi sono anche più preparati di altre fasce d'età più anziane, che magari utilizzano il tablet o lo smartphone, ma non sono nate con il tablet e lo smartphone, come invece sono nate altre generazioni. E infatti sono anche quelli che lo posseggono meno, lo usano meno, forse per proprio questo distacco, no? Sì, infatti l'indagine rivela appunto come tra l'altro crolli nettamente proprio la percezione della indispensabilità di questi strumenti. Più avanti si va con l'età, perché per esempio nella fascia del 45-54 anni solo il 27% ritiene che lo smartphone e il tablet siano indispensabili per la propria vita. Si alza nettamente nella fascia d'età tra i 15 e i 24 anni, dove il 42% del campione preso in esame ritiene che non riuscirebbe a vivere senza smartphone o tablet. Chiaramente è un dato un po' inquietante, Mirko, se dobbiamo essere sinceri. Pensare di non poter vivere senza questi due strumenti, quando meno male noi, altre generazioni, insomma, stiamo parlando di 15-20 anni fa, vivevano perfettamente senza, appunto inquieta un poco. Però insomma, ripeto, speriamo che ci sia una certa educazione anche a scuola, tale per cui questi strumenti vengono utilizzati per la loro utilità e non se ne abusi, come sta succedendo sicuramente in questo periodo. Allora, abbiamo fatto un po' di ragionamenti in più rispetto a quanto pubblicato oggi il Gazzettino, pagina 14 e 15, con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, associazionedifesaconsumatori.it. Ci ritroviamo tra qualche giorno. Grazie Gianluca. Grazie a te Mirko. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.